Radio 24 Reportage. Conetta, tutte le ombre dell'accoglienza migranti, di Valentina Furlanetto. Piena campagna veneta fra le province di Padova e Venezia. Nebbia, trattori, donne anziane chiuse dietro le finestre. Niente di niente, neppure un bar. Conetta sembra dimenticata da Dio e dagli uomini. Ed è proprio qui che il governo ha deciso di mettere uno dei più grandi centri di accoglienza per migranti. ...1400 persone nel suo picco a luglio, oggi sono scese a 740. Qui è sepolta Sandrine Bakayoko, che a Kona morì per embolia un anno fa. Era il 3 gennaio 2017, l'episodio scatenò una protesta dei migranti per le condizioni in cui erano costretti a vivere, per i tempi lunghissimi di attesa, in media un anno. Da allora nulla è cambiato. A novembre in 300 hanno marciato verso la prefettura di Venezia chiedendo la chiusura di Kona. I residenti, più che arrabbiati, sembrano rassegnati e d'altra parte dicono di essersi abituati a questa convivenza che non comporta gravi problemi per l'ordine pubblico. Le persone con cui abbiamo parlato sembrano più disgustate dalla deposizione in commissione banche dell'amministratore delegato della Popolare di Vicenza Zonin e dai risparmi persi. Da quello lì dovrebbe andare in galera e buttare via le chiavi e basta. Le preoccupazioni sono altre, insomma. Sì, sì, insomma. Quindi vanno in bicicletta e non ci sono contati, anche perché noi cerchiamo anche di dialogare, però parlo solo inglese, francese, quindi non c'è dialogo. Ci sono problemi di ordine pubblico o cose che fanno che danno fastidio? No, sì, a parte qualche gesto, non sono proprio educati. Diciamo che la paura di 2 anni e mezzo fa è diventata, insomma, abitudine. Ormai sì. Rassegnazione un po'. Uno ti dice che non cambia, l'altro dice che va bene così, là stanno benissimo. E quindi ormai... Secondo lei come stanno? Ha visto com'è fuori? Non è abitabile quelle cose lì, quei capannoni, perché abbiamo qui, quella lì può essere una cosa di emergenza. Viene un terremoto, viene un'alluvione, per un mese resti lì, no, per 2 anni. E qualcuno che è 2 anni che è qua. Noi siamo abbandonati a tutti. Prima era un paese tranquillo, non ne conosceva nessuno. Adesso siamo andati oltre oceano, va bene. Disturbano, ci sono stati problemi. Io, a me, guido, no. A me, cioè, abito qua, a me no. E che ne sei stato, che ha fatto disturbi, robe, sì. Ma però mica che abbia visto, no. Il centro di accoglienza proprio misero è rimasto, perché non ci sono casette, non è muratura, ci sono tendoni, quindi è una situazione di degrado. Al massimo, per loro in primis, perché è ovvio, non potevano pensare neanche minimamente che se ne stessero buoni, anche perché siamo arrivati, non so se qua forse ne saranno passate oltre 6-7 mila a giro, siamo arrivati a 1600, quindi un bel numero. Io non ne ho problemi, non so, ma io finora non, cioè, so che sono là, ma sì, ma non so, non so i problemi, perché mi vedo ci passa per qua e ne saluta e passa. Male di io, guardi, che io non vedo tutta questa tragedia di avere qui tante gente. A me non disturbano, poi a un certo momento se c'è qualcuno che anche al limite disturba, io comunque non noto niente di così fuori. È fuori luogo che ci siano mille, perché per un paesino così lì è l'errore, però a me non disturbano più di tanto, anzi no, problemi qui per le famiglie, così forse più la sensazione, sì, probabilmente quella. Comunque non danno problemi che ti vanno per fare, che vanno per le famiglie fare danni e roba del genere. Per niente, proprio, non ho mai sentito uno. Probabilmente sarà perché siamo abituati, eccetera. Sono tranquilli loro là. Noi al centro siamo entrati. Nonostante È apparso chiaro fin da subito che il centro è stato ripulito proprio per la nostra visita. Non hanno potuto nascondere i tendoni, dove 200 persone a tendone dormono ammassate in letti a castello, con coperte di fortuna, lenzuola logore. I bagni ci sono, anche se non sembrano numericamente sufficienti per quasi 800 persone. Le lezioni di italiano appaiono di facciata, visto che quasi nessuno riesce a mettere assieme una frase di senso compiuto in italiano, nonostante molti di loro stiano in Italia da più di un anno. La situazione è pessima qui. Siamo trattati come degli animali. Guarda la mia pelle. È tutta irritata. Ho un problema alla pelle per via dell'acqua. L'acqua qui non è buona. Guarda il mio letto. Guarda dove dormo. Il cibo non è buono. È sempre lo stesso cibo. Riso. Rice, no good. Vengo dal Gambia, sono arrivato in Sicilia 6 mesi fa. Poi mi hanno portato qui, a Kona. La situazione qui è davvero brutta, basta guardare, queste non sono case, sono tende. Qui fa freddo, è inverno, la temperatura cala durante la notte, la qualità del cibo è pessima e dormiamo in 200 tutti assieme. Non c'è privacy. Non c'è dignità, non c'è rispetto. Se uno sta male non ha neppure uno spazio dove ritirarsi da solo. Alcuni hanno avuto anche dei problemi psicologici per questa situazione. I corsi di italiano sono solo una facciata, tutti i corsi sono una facciata, non insegnano nulla. I residenti sono brava gente, gli italiani sono buoni. Abbiamo un buon rapporto con loro. Voglio anche ringraziare il governo italiano per quello che fa per noi. Ma lasciatelo dire, queste cooperative vogliono solo fare soldi. Kona e gli altri grandi centri esistono perché i sindaci non sempre accettano di accogliere i migranti. Su 8.000 comuni, solo 1.017 hanno aderito al sistema SPRAR, che fuori da logiche emergenziali garantisce il coordinamento con gli enti locali. Il 78% dei migranti, 136.000 persone, stanno invece nei grandi centri, dove c'è sovraffollamento, degrado e dove c'è spazio anche per il business di alcune cooperative come Edeco, che gestisce il centro di Conetta. Edeco è sotto indagine per maltrattamenti, truffa e falso ed è stata sospesa da Conf Cooperative, come ci spiega Giuseppe Guerini. Con un approccio sostanzialmente centrato su grandi numeri, sull'ottimizzazione dei costi di gestione dell'accoglienza rifugiati, un mercato che si stava espandendo e che dava delle marginalità, e questo non vale solo per le cooperative, noi abbiamo visto immobiliari piuttosto che società di pulizie che si sono riconvertite a fare accoglienza, ci sono società che facevano prima logistica che si sono messe a fare l'accoglienza. I gestori della cooperativa, Sara Felpati e Simone Borile, indagati per truffa, maltrattamenti e falso, hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni, anche se ci hanno tenuto a sottolineare l'ispirazione cristiana che li motiva, nonostante sul Gazzettino siano apparsi video nei quali la direttrice Sara Felpati apostrofava così i migranti ospiti del suo centro. No, siete dei macati, diglielo tu, Diano, in francese. Siete dei macati tutti. Tuttavia la prefettura di Venezia continua ad assegnare ad Edeco appalti, tanto che il fatturato della COP è passato da 114.000 euro nel 2010 a 10 milioni nel 2015. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Conetta.